Graziano, provincia di Ancona, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, io volevo raccontarvi una storiellina breve. Sto guardando la Schiavone che gioca con una ragazza inglese, no? Allora, per dire che questi inglesi l'hanno presa proprio male, perché a un certo punto la Schiavone ha fatto uno stop al volo con relativo calcio, no? Solitamente chi sta a vedere il tennis, quando un tennista fa un gesto del genere, battono le mani. Nessuno, quei musoni, no? Nessuno si è azzardato a battere le mani. Come, proprio, Gli brucia. l'hanno presa proprio malamente. Avrà ricordato i fantasmi, anche perché nella nazionale inglese di gente che sia capace di stoppare una pallina a tennis, come si deve, poi calciarla al volo, non ce n'è tantissimi. E quindi probabilmente sarà anche un pizzico di gelosia.